Radio Wombat. E buonasera e benvenuti all'ennesima puntata di 8 Hertz. Vado avanti imperterrito facendovi ascoltare delle cose curiose e spero particolari, e spero anche secondo voi particolari, spero che anche vi piacciono e che abbiate modo di conoscere qualcosa di diverso, oppure stupirvi nel trovare in una radio di Firenze così tanta novità o così tanta particolarità di gruppi. E stasera la puntata è un po' divisa perché metterò un po' di brani di amici, di persone con le quali ho condiviso vari percorsi musicali e poi dopo metterò un live registrato alla buona ma sempre efficiente, comunque si intuiscono bene le intenzioni di Mr. Mercile, ma ve lo dirò in seguito. È una cosa pazzissima. Comunque intanto vi faccio ascoltare come prima cosa un brano di un gruppo della zona di Firenze che sono i Nudist, che hanno fatto uscire da pochissimo il secondo disco loro, che si chiama Bury My Innocence, di Argonauta Records. Vi faccio sentire il primo pezzo, che è tra i più belli del disco, che si chiama Strengthless. E vabbè, ascoltatelo, è abbastanza roccioso. questa è la bella traccia di apertura del disco nuovo dei Nudist, che si chiama, lo ricordo ancora, Bury My Innocence. Il chitarrista, tra l'altro, è anche un costruttore artigianale di chitarre, e le fa in modo particolare col manico, non so in quale lega metallica, perché non ci capisco nulla. E è la stessa chitarra che usa anche un duo di Firenze, visto che la serata è un po' su questi tipi di gruppi. Sono Lette e Merdo, non li ho ancora mai messi. Questo è un live tratto da un festival dell'anno scorso che si chiamava Disintegrate Your Ignorance, a Nord, non mi ricordo bene dove, ma vicino Treviso. E questo è un brano che si può trovare nel loro secondo disco, che si chiama La Capitale del Mare, ma appunto una versione live dell'inesorabile declino chiamata 3.0, insieme a un terzo innecessario alle percussioni, e dopo scopriremo che era questo innecessario di fortuna. Va bene, intanto ascoltatevi il pezzo, che appunto è registrato live. Buon ascolto. Sarà il sound dal vivo di Metal Merda con un altro necessario questo brano che vi spiegheremo più tardi chi è, anche se un po' mi vergogno conoscendo il tipo, insomma. Il pezzo dopo siamo sempre su una tela post-hardcore così abbastanza monolitica, ecco, abbastanza pesantona. E come pesantoni sono loro i Void 00, che sono un gruppo marchigiano, doom, anche un po' molto, anzi funerei, molto psichedelici. Infatti la cosa particolare è che il chitarrista, secondo me, spazia, cioè esce un po' fuori dai soliti riffoni doom per creare qualcosa di un po' più, cioè di comunque di più personale e lisergico. Il pezzo è tratto dal primo disco che hanno fatto, l'unico, che si chiama sempre Void 00. Il pezzo si chiama Pleasant Trip, e li saluto tutti sperando di vederli di nuovo presto in azione. Il disco è uscito per Shove Records e Diodrone. Noi ci ascoltiamo questo pezzone, andateci, seguitelo con le 8 Hz del vostro cervello, ecco. Secondo me vi piacerà. Thank you. Erano i Void 00, ovvero come miscelare gli Psychic TV con il Doom. Tra l'altro, ascoltando questa voce bella effettata e riverberata, mi è venuto in mente che poco fa, appunto, ascoltavo un'altra trasmissione di Radio Wombat che si chiama L'Accademia della Brusca. Ascoltavo il brano Fantozzi dalla Host di Fantozzi, che era il Fantozzi's Dam praticamente. E nella voce c'era un bellissimo riverbero, c'era un riverbero incredibile qui, insomma, ci si può sbizzarrire con le citazioni. E quindi, insomma, ecco, è una trasmissione che mixa questi grandi cavalli di battaglia della musica con lezioni di linguistica. E appunto questo tipo di trasmissione la potete trovare solo su Radio Wombat, ma così come l'Accademia della Brusca siamo pieni di trasmissioni veramente pazzesche. Mortal Wombat che parla e fa ascoltare l'hip hop italiano e europeo. I live elettronici di anni fa improbabili di Tonight Alive, la musica di Soul Time che parla di per sé, Coccole al silicio, Slick Chick con puntate tra i temi più bizzarri, musicali, concettuali, quindi di seguito tutte le musiche che ci possono stare. La puntata scorsa era appunto sul problema di non dormire, c'erano tutti i pezzi che parlano del problema del non dormire. Passaggio a nord-ovest, Coccoli al silicio, Otto Arze che è la mia, Fuoco alle polveri che è un contenitore di news, interviste, La fuga del gatto di musica classica, e anche altri, insomma, che trovate la programmazione, il palinsesto nel sito di Radio Wombat, quindi guardatevi anche il palinsesto, non ascoltate solo lo streaming. Tenetevi aggiornati con il Facebook o con il Twitter o con tutti e due se siete super mega cibernetici. Scriveteci le vostre impressioni, le vostre idee su posta wombat chiocciola in siberia.net. Wombat è sempre con la W perché si chiama così, insomma. E quindi vi voglio anche ricordare gli appuntamenti di questo fine settimana, che sono vari. Me ne ricordo qualcuno che... Allora, partiamo da domani, venerdì 5 maggio, alla Polveriera, in centro a Firenze. Dalle 16 alle 23 c'è Baldoria, c'è una acoustic jam session. Dalle 15.30 c'è il ritrovo dei musicisti, quindi chi vuole suonare si rechi lì alle 15.30. Dalle 18.30 la Mega Jam, e alle 19 intanto prepareranno un aperitivo a bordo palco. Dopo ci saranno all'Emerson gli Smashing Pumpkins che fanno grind della Repubblica Ceca, più Sveg e Vige che sono un gruppo slaggione tra i più slagge, secondo me, in Italia, perché sono veramente, ma veramente malati. Si inizia presto e si finisce presto, ovviamente. Così reca la news. Il sabato 6 maggio, invece, c'è una diretta Wombat dalle 14 del corteo in valle. Quindi c'è una marcia da Bussoleno che finisce a San Didero. In Viale Corsica all'occupazione dalle 15.30 alle 22 c'è il rap e al K100 ci sono i Rude Pressure di Roma più la svolta a fare il DJ set. Ho finito di rompervi con il parlato. Mi riconcentro un po' sui gruppi che voglio mettere questa serata. Visto che il live che occuperà la parte finale del programma di Mr. Markyle, suonato prevalentemente da un violoncello. Vorrei farvi ascoltare un altro personaggio di origini fiorentine che suona il violoncello e anche un turnista per gruppi molto grossi, quindi noi non li diciamo. Si chiama Matteo Bennisi, ha fatto un disco solista poco tempo fa, è comunque del 2016, si chiama Solum e mischia appunto un violoncello suonato in un modo molto melodico, anche se dietro c'è anche dello sperimentalismo, su tessuti elettronici. Lo voglio salutare, visto che mi ha fatto recapitare un CD suo. Lo ringrazio di nuovo tanto. Metto il pezzo di apertura che, tra l'altro, ha usato. Era stato scritto originariamente per il suo progetto live solista che si chiama, o si chiamava se non lo fa più, Shestaia, dove praticamente musicava dei corti o dei mediometraggi di Dziga Vertov. Ho avuto il piacere di vederlo un paio di volte, era veramente bella come cosa. Quindi vi faccio ascoltare il primo pezzo di Solum che si chiama Riot Song. Ascoltatela. È molto musicale, ma ha un perché, non è a casaccio. Thank you. Questo è il suono di Solum, del disco Solum, il brano di apertura di Matteo Bennici, che oltre a essere violoncellista è anche contrabbassista e bassista con un animo ben metallaro, e così come questi altri che vi sto a mettere, che sono i Bologna Violenta, dei quali appunto fanno parte Nicola Manzan, che è violinista oltre a essere speed metallaro dentro, e Alessandro Vagnone alla batteria un po' digitale ma suonata dal vero, che appunto era il terzo elemento nel live che abbiamo ascoltato prima degli Et Merde, era il terzo innecessario, ma tanto lo trovate scritto in tutte le fonti, in tutti i manuali della storia del rock, per cui insomma era tranquillo svelarlo. E quindi volevo mettere Bologna Violenta, che avevo già messo, ma non questo pezzo, perché da poco hanno finito il tour di Discordia, e così allora era un po' un omaggio. Discordia è l'ultimo loro lavoro e fatica, e anche questo è il pezzo d'apertura che ci sta bene con Matteo Bennici, col pezzo che abbiamo sentito prima, che si chiama Sigle di Telefilm, è un po' tangato. Violenta e il suo ultra speed grind elettronico, e trovateci voi qualche modo di definire questa musica. Allora ci avviciniamo un po' a quella che è stata la serata di ieri, in cui organizzata da Diodrone, che è stata fatta in un pub a Prato, a Struttura Birra, e hanno suonato appunto, oltre a Mr. Markyle, che è una one man band, anche i Chainsniffer, che appunto anche loro sono una band velocissima, che mescolano il grindcore, il power violence all'elettronica, anche a qualcosa che ha a che fare con il lento. Erano pazzissimi e bravissimi, hanno aperto appunto a Mr. Markyle, e vi metto quindi due pezzi, uno di seguito all'altro, che sono entrambi tratti da uno split che si chiama Precocious Garling Audacity Track, che potete scaricare gratuitamente dal Bandcamp, insieme ai Grossel, Nasty Face e Blood Snorter, che sono tutte band affini. Loro sono una band di Bruxelles, e quindi ci andiamo ad ascoltare queste due power tracce. Yeah. dopo questa pazzia ritorniamo un po' a riprendere le redini del nostro cervello con un'altra uscita del 2016 che non ho ancora messo, che è degli Ornaments, del loro ultimo disco che si chiama Drama, che ha un concept sul Prometeo incatenato di Eschilo. Loro sono molto conosciuti per aver fatto un disco che è stupendo, che si chiama Pneumologic, che insomma ebbe molto successo 2 o 3 anni fa, se non sbaglio, non mi ricordo la data precisa. Uscì anche un video bellissimo di un loro pezzo, che era anche lungo, però veramente si seguiva molto bene. Che non è cosa da poco. Insomma, il pezzo che vi metto è tratto da Drama per farvelo ascoltare, per farvi conoscere, per chi non avesse sentito parlare degli Ornaments, di memoria sempre post-hardcore sul lento andante, diciamo. Il pezzo si chiama Oceano, è uno dei brani presenti nel disco dove canta il refrain, che è un altro personaggio dell'underground che si sposta molto per l'Italia da sola, con la chitarra in loop distorta e la voce. Insomma, è molto brava. E adesso ascoltate la fusione di questi due progetti, Ornaments con la featuring di Refrain. Buon ascolto. questo erano gli Ornaments insieme a Le Refrain nel loro ultimo disco Drama. E adesso partiamo con il live di Mr. Mark Kyle, che se non sapete chi è un progetto solista, una one man band, perché immaginatevi di vedere questo signore molto incazzato in mutande e scarpette che suona una doppia cassa vera, quindi insomma già tanti punti perché non ha un doppio pedale ma ha veramente una doppia cassa, un violoncello perennemente distorto e una gran bella voce con cui modula anche tecniche tibetane. E il suo live l'ho trovato veramente pazzo e furioso, ma soprattutto coraggioso perché diciamo che veramente quando lo ascolterete non manca nulla al suono, cioè sentire un violoncello così pieno e suonato con così vigore ti fa veramente pensare che i Metallica non sono più nessuno da tanto tempo. Per cui ascoltiamoci questo live, non è il live integrale, è un live comunque abbastanza lungo perché dura una mezz'oretta circa. Gustatevelo, la qualità non è ottima, però insomma si sentono benissimo i brani e le sue intenzioni malate. Altra cosa da dirvi, informandomi, so che sputa molto, ecco. Comunque ascoltatevelo e godetevi anche il suo modo di interpretare questi strumenti che ha a disposizione, che sono fondamentalmente tre: doppia cassa, voce e violoncello. E puoi farci questa cosa che stai per ascoltare su 8 Hz. Noi ci vediamo, ci sentiamo presto per una nuova puntata diversissima come al solito. It is time to get down. If you want to test again, easy. Just get down. Thank you. Thank you. Facciamo un consumo. Oh, c'è la donna. I'm not doing any records. Nothing is totally sold out. If you really want, you can find some on the internet. Some friends are saying the movie is true, the real life, so enjoy. I'm not saying for money, just look quite cheap. But if you like something to go back home, I can sell some spits. It's 50 cents. You can get it on your shirt, on your ears, whatever you want. So, let's try spits. All personal stuff. DIY, pure DIY. Yes, DIY. Yeah. DIY on the knee, DIY on the shirt. On your black leather jacket. On your chest. On your brain. Eat your brain. Thank you. Okay, I have concern for this kind of situation. I'm not usually playing covers because I assume that cover sucks. Norman covers are something people like because they know already the kind of bullshit. But especially for general culturation of neighbors and ourselves, I will play a cover tonight from Nepal. It's called that's all. I'm playing cover, so you are winning. Life is your birthday, so happy birthday to you. Just affirm that. Why? That's my